abbiamo avuto rinnovi contrattuali per ben 9 milioni di persone, di cui, fatto salvo il contratto separato dei meccanici e le difficoltà registrate nell'ultimo contratto dell'autotrasporto locale, per il resto circa 8 milioni di persone hanno approvato con una percentuale tra l'80 e il 90% i contratti rinnovati. No, il problema mi pare un altro. Il problema mi pare è che ci sono in questa dimensione generale situazioni come quella del trasporto locale, dove per esempio si comprende la difficoltà da parte di alcune aree del paese, penso a Milano, a recepire quella soluzione contrattuale, ma d'altro canto io sono uno che pensa che quella soluzione contrattuale, come dire, è vista anche con grande invece soddisfazione in realtà locali come Reggio Calabria, Trapani o Salerno. Semmai qui si innesta il problema che in questa dimensione di schema contrattuale unico per tutti i settori, nazionale, decentrato, vi sono alcune realtà come questa dove bisogna comprendere che forse serve un contratto nazionale come riferimento generale di solidarietà, e poi dove c'è la ciccia, cioè dove il trasporto locale è inattivo, come a Milano e in alcune altre province, ci deve essere una contrattazione che punta a prendere. Per esempio, a Milano avevano offerto 106 euro, il contratto si è chiuso a 81. Bene, lì a Milano vuol dire che questa differenza la devono dare, visto che per primo Comune e Regione si sono esposti in questa direzione.